La scelta è giustificata dal fatto, diciamo, dal fronte governativo, utilizzando la giustificazione che la Turchia è un paese membro della NATO e a detta della unità che presso la Farnesina si occupa dell'autorizzazione alle esportazioni di materiali d'armamento, che la Turchia rappresenterebbe un alleato strategico nella lotta al sedicente Stato islamico. In forza di queste giustificazioni, peraltro talune anche piuttosto problematiche, vedasi il ruolo della Turchia di alleato in realtà sul terreno dei miliziani dello Stato islamico, in forza di queste giustificazioni o di pretesti, l'Italia esporta una quantità ingente e autorizza l'esportazione di una quantità ingente di materiali d'armamento, tanto che il 2019, per quanto ci risulta dati Istat alla mano, rappresenta l'anno record senza pari nella storia delle relazioni armate, diciamo così, tra Italia e Turchia. Nei primi 10 mesi dell'anno appena trascorso, i dati si fermano a ottobre per ovvi motivi di elaborazione, l'Italia ha esportato, quindi non ha autorizzato l'esportazione, ma ha esportato materialmente armi e munizioni per 102 milioni di euro. Il 2012, che fu l'anno di picco, anche quello senza confronti nella storia delle esportazioni, non superò i 90 milioni di euro. Bene, in 10 mesi su 12 noi abbiamo nel 2019 già superato ampiamente quella soglia e ci candidiamo ad avvicinarci a cifre allucinanti. Chi arma la Turchia nel concreto? Cioè, quali sono i principali nomi italiani? Allora, la principale impresa interessata, per ovvi motivi e ovvie ragioni, alla esportazione di materiali d'armamento in Turchia è l'ex Finmeccanica, oggi Leonardo, che in Turchia vende sistemi d'arma complessi, tra questi anche elicotteri, anche sistemi radar e altre tipologie. I soggetti invece su cui noi ci siamo concentrati maggiormente sono soggetti che sono un po' meno noti di Finmeccanica, Leonardo, e che si occupano del munizionamento pesante, che è passato poco all'attenzione nel mese dell'offensiva militare e che in realtà rappresenta autorizzazioni all'esportazione alla mano, una componente piuttosto determinante e decisiva. E tra questi ci siamo occupati a loro volta in particolare di aziende domiciliate in provincia di Roma, perché ci risulta, sempre dati Istat alla mano sul commercio estero, che è da quel territorio che sono partite nel 2019 e nel 2018 le quote più rilevanti di armi e di munizioni verso la Turchia. E quindi ci siamo occupati di alcune aziende, tra queste una società che è domiciliata a Roma e che si chiama Meccanica per l'elettronica e i servomeccanismi, MES, che peraltro è anche partner e fornitore del nostro Ministero della Difesa. MES ha legittime e regolari autorizzazioni all'esportazione in Turchia, in forza di quelle tra 2018 e 2019 ha esportato pesantemente in Turchia munizioni e spolette. Ma si sa quali sono i principali utilizzi di queste armi? È sicuramente un utilizzo militare o ci sono anche altre strade aperte? Questi sono prodotti militari, cioè non ci può essere un utilizzo civile di munizioni e spolette della tipologia che produce la MES, cioè non, sono prodotti militari. Non è che può essere sedata una manifestazione di piazza con dei colpi di calibro paragonabili a quelli che produce la MES. Non ho alcun problema a individuare, ma nemmeno il produttore ha problema a individuare quelle produzioni, quelle forniture come impiego militare. Poi, in quali teatri vengano utilizzati questi munizionamento pesante, allora lì andrebbero svolte delle approfondite analisi sul campo per verificare tra i resti che tipo di fine abbiano fatto quelle forniture. Quindi comunque sin dal momento della produzione, dell'esportazione, è esplicito che si tratti di armi all'uso militare, non vi è una narrazione diversa anche in panorama italiano? Lato fornitore e lato, cioè rimanendo nel campo della realtà, non c'è alcun dubbio che si tratti di forniture militari, tant'è vero che devono essere autorizzate dall'unità della Farnesina che si occupa di autorizzare l'esportazione di materiali d'armamento. Dopodiché la retorica pubblica più inflazionata è quella ma no, vengono definite materiali d'armamento, ma in realtà noi vendiamo pezzi di ricambio, vendiamo tutta una serie di produzioni che non sono le armi come tradizionalmente intese, ma in realtà noi vendiamo appunto pezzi, non armi. Questa è la tesi della Federazione delle Aziende Italiane dell'Aerospazio e della Difesa, che è rappresentata dall'ex parlamentare Guido Crosetto. In realtà come dire, il contesto è completamente diverso, cioè, ma dati relazioni pubbliche alla mano, l'Italia è autorizzata ad autorizza imprese a esportare bombe, munizioni, siluri, razzi, aeromobili, software, tecnologie, corazzature e armi di calibro superiore ai 12,7 mm. Quindi su questo le relazioni che ogni anno il Parlamento riceve da parte del Ministero degli Esteri per l'autorizzazione di materiali di armamento non c'è alcun dubbio. Poi purtroppo c'è sempre la distanza tra gli atti e la realtà e il discorso pubblico, ma su questo non si scappa.